Allora, mi chiamo Pincelli Simone e per il progetto di Borgo Sacco ho deciso di fare un fumetto. Come avevo pensato di creare delle mura che separavano Sacco da Rovereto, ho cambiato idea e ho fatto il fiume. Allora, praticamente mi sono immedesimato nella mia persona, perciò ho disegnato me stesso, che vedo il mondo diviso a metà, appunto tra Sacco e Rovereto. C'è un cartello in mezzo che delimita a sinistra Sacco e a destra Rovereto, e tutto il paesaggio è diviso da due mete, si può dire. A Sacco è nuvoloso con fulmini, appunto perché Sacco era una piccola città che veniva presa in considerazione molti anni fa come manodopera e resto. Adesso è meno diffuso, infatti si sente poco parlare. E a destra del Rovereto invece è bel tempo perché, vabbè, è una città molto visitata. E nel mio fumetto esprimo i miei pensieri, per esempio che solitudine, tristezza nel vedere tutto questo. In seguito però, appunto, con l'esperienza che abbiamo fatto, praticamente mettendo cuffie e microfoni e facendo molta attenzione si può scoprire nuovi suoni che a noi prima di questa esperienza non erano molto scoperti. Allora ho fatto il mio personaggio che indossa delle cuffie e dei microfoni e quasi tutto il disegno è in bianco e nero, appunto perché c'è questa tristezza e divisione tra Sacco e Rovereto. Però mettendo microfono e cuffie esce un'aura colorata di felicità che unisce Borgo Sacco e Rovereto. Nell'ultima vignetta, appunto, il fiume, come viene separato, vengono creati dei ponti, appunto perché è un legame che deve rimanere unito. E praticamente, come ho detto prima, è un legame anche interno tra noi, tra il corpo e l'anima, appunto nel sentire i suoni, nel visitare il paesaggio, e ho scritto anche il suono ha il potere di unire un legame, appunto prendendo spunto dal ponte che lega due paesi.